benvenuti a Coxo Spaziale. Non facciamo una diretta, no, non è vero, Fedra ha fatto la diretta la settimana scorsa, ma io non c'ero. Oggi non c'è Fedra e faccio la diretta io, per cui Giffo 333 180 94 94, stiamo aspettando i tuoi insulti e siamo anche in un po' dello stanzone, si può dire stanzone? Parla un po' dello stanzone, parlatene un po'. Sì, Pier Maria, si può dire stanzone in radio? Non lo so se si possa dire stanzone, io però sono venuto in radio per fare una cosa che è dall'età di 13 anni che voglio fare ed è questa sa 1, 2, 3, prova. Guarda, è dall'età di 13 anni. Ma vuoi che ti abbasso la musica di sottofondo e lo rifai meglio? Posso rifarlo, posso. Dai, rifarlo. Allora, così. Sa. 1, 2, 3, prova. Sa. Ecco. Questo è Coxo Spaziale, sappiate. Doveva venire da Cuneo per fare esatto. Questa. No, ma infatti mi sembra giusto. Adesso mi alzo un po' perché mi dicono sempre, anzi saluto Stefano Migliore, che non solo si chiama come me, ma è anche un migliore DJ di Radio Città Fugico, mi dice sempre che io sono basso, per cui mi sto alzando, ma non basso di statura, ma basso di volume. Presentiamo anche gli altri. Effettivamente c'è un po' di gente oggi in studio. Li presenti tu? Dai, fammi da co-conduttrice. Solo che non so il cognome vero. Io lo chiamo Costalo Nero, questo ragazzo che si chiama Francesco. Ah, si chiama Francesco. Io non sapevo neanche che si chiamasse Francesco. Figuriamoci un po'. Sono una figura mitologica dello stanzone. Una figura mitologica dello stanzone, nonché grande chitarrista dei Roy Noir che abbiamo avuto in studio. Avuti, ah certo, ecco. Infatti è lui l'esperiente di questo però programma. Suoni anche il basso, vero? Sì. Perché forse viene a provare il basso con noi, lo sai, vero? Ah scusa, però suonavi la chitarra l'altra volta o me lo sono sognato? No, anche. Suona un po' tutto. Polivalente. Sono quello che si occupa un po' devi urlare più verso di là del basso. Ma adesso ci sono un po' di progetti in ballo, adesso vediamo un attimo di vedere cosa provare, succede. Sì, cerchiamo di confezionare qualcosa di carino anche con Lidia e Michele, ma non abbandono il Roy Noir, in quanto stiamo preparando uno spettacolo a teatro e pubblicheremo, praticamente debutteremo ad aprile, Teatro Deon. Tutti nudi? No, tutti, sì, tutti nudi, in calzamaglia. Venite numerosi. nudi no, perché non sarebbe un bello spettacolo. Però promettiamo uno spettacolo rock dove si ride e si riflette anche, insomma, si chiama titolo? Il chiodo, l'anfibio e il bulbo sugli occhi, che è un po' un viaggio nello spazio e nel tempo, negli anni 80 di Bologna, e quindi è un percorso che abbiamo confezionato. E magari, se tu permetti, verremo anche a presentarlo. No, assolutamente. Hai detto che è in aprile, giusto? Sì. In aprile, dolce dormire, mi dispiace, ma noi siamo ancora a letto. No, anche noi. Assolutamente. Nel frattempo, non sono andata a vedere neanche Michele a teatro, che ha fatto uno spettacolone anche lui. Ecco. Anche qui il chitarrista di Lidia Is. Ah, hai capito. Adesso gli diamo il permesso speciale di poter anche salutare. Signori Michele. Ma che cosa? Non so, io non sapevo niente. Cioè, naturalmente, io chiamo ospiti a casa per una trasmissione che dovrebbe essere di arte e teatro, ma invece c'è anche arte e teatro, hai ragione. No, è che quello era pattuito come l'unico mio contributo della serata. No, io ho no, aspettato io per, il mio io però prima sai della fine vorrei un saglietto. Prima della fine, però. Prima della fine, delle però, tre ragazze qui non diciamo niente. Ah, non lo so. No, ma abbiamo sempre un tasso di gnoccheria. Beh, chiaro. Maria Laura, mi veniva da dire Maria Laura. E gli auguri! Ah già, compleanno di Michele ed Elisa, tutte e due compiono gli anni e stanno anche insieme. Tanti auguri. Dopo vanno a festeggiare. Ottimizziamo i tempi così. Dopo festeggeranno, faranno. Faranno non so, un po' cosa combinano. Farà un po' i cazzi loro dopo, o no? Adesso, non si dice però. Qui c'è musica. È una domanda. Sembra di sì. Possiamo avere la prima canzone? Dai. Così, io i volumi li faccio mentre voi andate, come al solito. stile coxo spaziale. Presa, così. Abbasso il microfono di Saglietto perché non si sa mai che gli venga in mente. Ho un problema in questa canzone, faccio. Gli venga in mente di fare dei cori, no? Non si sa mai. Va bene, per cui lo abbasso. Il mio me lo tengo alto. Se faccio dei cori, abbattetemi voi, ok? Okay. Perché ogni tanto mi succede. E vi lascio carta bianca, ruota libera. Mi sembrava di averlo già sentito, lo sai tu, Pier Maria? Claudio Villa? No. PJ Harvey. Ah, ecco, l'avevi anche scritto in stanzone, sì, me l'ero dimenticato. Dato che facciamo sempre pezzi strani che conoscono in pochi, però dopo qualcuno famoso lo facciamo, dai. Grazie che mi hai alzato la cuffia, perché io mi sono completamente dimenticato che da qualche tempo, tipo 20 anni, hanno cambiato i volumi delle cuffie e il volume della mia cuffia è più alto della vostra. E sono regolabili. Infatti no, l'ho notato perché ti avvicinavi un po' troppo. Vedi, ma va bene così? Io le vuoi anche più alte? No, direi che ok, perfetto. Nel frattempo rimettiamo un po' di chi è? Un pochino di sottofondo. Ah no, mi sono dimenticato, volevo fare così. Coxo spaziale. Ci vuole un po' di Farnedi, no? Salutiamolo però. Salutiamo Farnedi che stasera suona, non mi ricordo più dove, però non è qui con noi. E infatti stasera, fra l'altro, cioè questa settimana non ho avuto tempo di cercare le menzioni. Mi ricordo vagamente che stasera inaugurava una mostra ad adiacenze di Mona Lisa Tina e mi dispiace che non sono andato a vederla, però così mi scuso e non ho neanche menzionato perché mi è arrivato l'email tipo 3 giorni fa e il coxo della settimana scorsa era la settimana scorsa. E così, e come ci si sente a suonare dal vivo in radio? a suonare e cantare dal vivo in radio. Sì, soprattutto dopo che mi hai alzato così, sentivo in cuffia, è stato bello. È stato bello. È stato bello. È stato bello, pianto tanto. Ma tu sei polacca. Ma che polacca? Che... Perché solo le polacche hanno quel fuoco negli occhi. Accidenti, scoppia l'amore. Sì. Era una citazione, stavo per dire, no, una citazione ignorante, tipo. Una citazione da Mark Howard, che c'è, quando c'è lo zio che importuna tutte le donne, dice: tu sei polacca? No, non sono polacca. Dice: allora sei cecoslovacca, perché solo le cecoslovacche hanno quel fuoco negli occhi. Mamma mia, bravi. L'ho visto che avevo 8 anni, non mi ricordavo più. Ah, per cui sei rimasta traumatizzata per tutta la vita. Esatto. Ogni tanto, mentre dormi, ti viene da dire esportazione. Molto bene, siamo qui a Coxo Spaziale con i Lydia Is, che si stanno preparando per un altro pezzo, giusto? Anche perché io non ho niente da dire, non so. Assolutamente. Saglietto, dove sei stato te oggi? Sei stato dalla Nicoletta, ma tu l'avevi già, conosciuta? È la prima volta che salutiamo anche la Nicoletta Orlando. Rimini, San Marino, Rimini, Bologna praticamente. Ma come sta San Marino? Perché è un po' che non ci vado. Ma San Marino, cioè, in maniera titanica sempre. Le sigarette costano ancora meno. 50 centesimi mi ha aggiornato il mio socio di viaggio oggi. 50 centesimi in meno. Beh, per cui direi che va venire da Cuneo. Lui andava di stecca probabilmente. Ah, ok. Capito? Sì. Sicuramente, per cui ne vale la pena. Se ne forse non arrivare. Cuneo bisognerebbe portarne qualche stecca in più probabilmente se uno fumasse. Però lui ha detto che, essendo Rimini, ogni tanto un passaggio per un paio di stecche lo fa. Ho capito. Cosa abbiamo trovato? È arrivato qualcuno, no? Lidia si è emozionata. Perché in realtà aspettavamo l'Elisabetta Gandolfi con una certa trepidazione, ma sembra che non ci sia. No. Per anche cui... l'Elisetta Mazzagardi. Vabbè, dai, adesso non è che possiamo avere. C'era già l'altra Elisa. Abbiamo altre sorprese che però non vogliono parlare, per cui rispettiamo il loro volere e lasciamole scattare. Carine, Ma voi ogni tanto suonate dal vivo, vero? Certo. Accademandoli, sì. Sempre accademandoli. No, adesso vorrei... Cosa vorresti? Scandellara. A Scandellara? No, vabbè, a Scandellara. Un salto di qualità. Ah, ok. Suoniamo sempre a Scandellara. Una selezione di pezzi per poterli portare in giro... al circo. Locali, il circo permetterebbe di andare tutti in giro con anche le bestie feroci. Finora abbiamo fatto concerti acustici, cioè semi acustici. Insomma, alla fine no. Perché tu sei un po' elettrica. Io sono un tipo un po' elettrico. Però chissà mai, magari una batteria ogni tanto non farebbe paura. Comunque sappi che io mi sento un privilegiato di aver potuto mettere su CD la tua voce. È vero. Per cui così. Anche a Coxo Spaziale hai fatto sentire. È vero, ho fatto sentire. Ho guardato nel 2014, hai messo su Lydia Is che cantavamo Venus in Farce. Esatto, che fra l'altro hai rischiato che lo rimettessi su 2 settimane fa e poi invece non avevo abbastanza tempo per farlo e non... Mettilo però ce l'avevo nella chiavetta. Ti sei iscritto alla mia pagina di YouTube. Alla tua YouTube? Ci ho messo. Sì, no, YouTube, si chiama il canale di YouTube. Sì, no, perché appunto proprio perché ero andato a riguardarmi. Com'è che si chiama quel pezzo? Venus in Farce. Eccola lì, ti piaceva. Okay. Sì, anche perché è l'unica registrazione che ho di te, a parte quella che ho stampato sul fantastico CD Aiutatemi che sono messo male. Si chiamava Chissà chi è, quella canzone era un pezzo mio. È vero, bella fra l'altro. Parlavo di Angelino che nasceva, Chissà chi è. L'ho scritto mentre ero incinta. È bello, no? Per un figlio avere la mamma che ti scrive un pezzo. Un pensiero straordinario. E un disadattato Francesco, che lo pubblica, no? Poi, dato che dopo mentre lo registrava è nato anche Francesco, alla fine è unito tutti insieme. Ah, ho capito. Fantastico. Quindi ho pensato a tutti e due. Saluto i due bambini che... Chissà mai che non siano anche marito. Esatto. Forse perché in casa non riuscivano a sentirlo. Ho detto di andare in macchina. Ma fantastico. L'ho detto anche al mio rosticiere. Mi raccomando, ma scusa, mentre tu non abiti a San Lazzaro si dovrebbe sentire benissimo, perché Radio Città Fujiko si sente fino a... com'è che si chiama il paese che c'è in fondo? Castel San Pietro. Io quando lo sento in autostrada. Ma fuori si sente benissimo, è in casa. È in casa, che è esatto. Comunque, fatto sta che. Sento delle schitarrate, della voglia di continuare, per cui andate, siamo pronti. È molto triste, però è bella, dai. È bella ma triste. Questa l'abbiamo messa su proprio per voi, come quella dopo, non l'avevamo mai fatta. Lydia Hills. God knows what is hiding in that weak and drunken heart. I guess you kissed the girls and made them cry. Those are faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken eyes. A fiery throng of muted angels giving love and getting nothing back. People, well, the people, and if you're sick, give me your hand and I hold it. People, well, the people, nothing we drag you down. Oh, if I had a brain. Oh, if I had a brain, I'd be caught as a stone and rich at the fool that turned all those good hearts away. God knows what is hiding in that word, a little consequence behind the tears inside the lies. Thousands slowly dying sunsets. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. I guess the loneliness come knocking. No one needs to be alone. Oh, save me, people. I'm the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. I'd be cold as a stone and rich as the fool that turned all those good hearts away. Bravi, scusate, che effettivamente grazie. Te lì seduto in un angoletto, potresti essere un CD che non in radio non si sente se sei dal vivo, se sei registrato. E brava, complimenti. Grazie. Stavo. Ma quanto prova la Lidia per essere così brava? non ha bisogno di provare. Ormai quel che fatto è fatto. Come mai a un certo punto ti sei tolta le cuffie? Mi sono spaventato perché dico adesso caccio quattro voli che... Infatti sentivo meglio senza cuffie che con. Ah sì? Sai che forse sì, un ma po' vuoi, una vuoi che... ci vorrebbe. Ah, beh, ditemelo perché era per non rompere no, i maroni. No, ma figurati, io ti posso anche alzare così, se ammazza. Vuoi. No, dimmi tu, perché siccome io ho dei volumi diversi non ho problemi. Ma non voglio farvi male, insomma. E perché all'inizio non ha fatto perché tu non ce l'hai le cuffie, prova. Tu ascolti dal vivo. Assolutamente, io solo live. Proprio la... dai, ce la possiamo okay, fare. Ok, vuoi dai. Che faccio un urlo anch'io? No. Fammi sentire il beatbox. Sono ancora alle prime armi. Pizza che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha. Ma andrei avanti tutto il giorno. Pizza che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'è. Yeah. È il telefono di Cinzia Chen. Che se tu gli dici fammi sentire il beatbox, ti fa sta cosa qua. È interessante, no? Sì, moltissimo. E così. Parla, Saglietto. Saglietto. Sono in contemplazione. In contemplazione? Noi cuneesi abbiamo bisogno di quei 2-3, al massimo 4 mesi per ambientarci. Cominciamo a parlare. Lui non ha le cuffie, per cui lui non l'ha sentito. Bellissima non l'ha sta sentita. Cosa. È una roba montanara, non ho capito. Aspetta, no, Lolli e Farnedi che cantavano. Infatti, Lolli perché tu non hai le cuffie? Vabbè, ma va bene lo stesso. Dai. Stavo guardando se per caso. Infatti mi sembrava anche strano. Francesco. Grande Lidia Walter, mi dicono. Chi è Walter Ciusa? No. Ah, beh, non lo so. Vuoi che lo, richiamiamo? Ma sì, dai. Ma dai, scrivetemi. Scrivetele. Però solo cose buone, pietà. 333-180-94-94. Non telefonate perché io non sono in grado di rispondere, solo Fedra è capace di rispondere al telefono di Radio Strafugico. Perché, chiarina a rispondere. No, perché c'è questa attrezzatura anni 70 che mi vede un po' così, un po'. Non so più che bottoni pigiare. Salutiamo anche Arcidiacono e i suoi Mac. Ma Arcidiacono no? Dove è andato? Non è venuto? Ma lo stanzone, tu hai spiegato cos'è lo stanzone? Spiegalo tu che cos'è lo stanzone. Magari l'abbiamo spiegato no, magari quattro anni fa, però... Dai, Saglietto, spiega che cos'è lo dai stanzone. Dai che io bevo. Ma per spiegarlo dopo dovrei capirlo prima io che cos'è lo stanzone. No, non qui, bevo nella stanza a fianco, che sia chiaro. Chi veramente. Non porto liquidi come mi hanno... Incredibile. Lo stanzone è un luogo metà fisico e l'altra metà non l'ho ancora capita, francamente. Quindi bisogna. Ve lo spiegherò quando capisco anche qual è l'altra metà. Quindi è un luogo enigmatico con personaggi mitologici. E ogni tanto ce n'è qualcuno che ho visto che passa anche a Coxo Spaziale, effettivamente. Pasquini li raccoglie, li porta qua, li tiene un'oretta, li libera, li fa prendere un'ora d'aria e poi li tutti riporta da pizzati, dentro, chiaramente. Naturalmente. E fra l'altro mi sono dimenticato il pezzo di Bonazzi su Pizzartist, che quello oggi ci stava, come magari sigla finale, ma va bene lo stesso. Effettivamente l'altra metà dello stanzone, come titolo di un romanzo della Cavina, potrebbe essere... interessante. Glielo proponiamo a Caterina. Salutiamo la Cavina. Salutiamo la Caterina Cavina che è lì che ci ascolta. No, in realtà è fuori con degli altri. State mangiando della droga. Andati in giro col cinghiale. E una caramella per la voce si può portare dentro. Sì, si può portare la caramella per il la box, voce. No, non si può. No, i preservativi no, però quelli lasciali lì fuori. A proposito, saluterei i miei studenti. Così. Dai, saluta i tuoi studenti. Ma ci sarà qualcuno? Beh, dopo gli mando il link. Lo streaming. il link che troverete, il podcast che troverete su www.coxospaziale.blogspot.com. Quindi il broadcast. Il broadcast è quello che stiamo facendo in questo momento. Il podcast invece è quello podcast. Registrato. Sì, questo viene da quegli strumenti maledetti chiamati iPod che a un certo punto erano di moda, non si capisce bene perché. Forse c'è un altro, non ho capito se ci sono degli altri messaggi perché non ho capito Beh, come dei funziona. Messaggi. Chiudi canale. Ok, no. Chiudi canale. No, dice chiudi canale, poi mi dice chiamare. C'è una chiamata senza risposta, ma quella non ci interessa perché appunto non sono capace di rispondere e poi comunque non è il numero giusto per chiamare. Se volete chiamarla diretta il numero è 051 34 64 58 ma io non rispondo, cioè magari rispondo oppure citofonare Samantha. Esatto. Magari rispondi ma non viene microfonato. Sì, esatto, cioè rispondo però mettilo vicino al microfono la cornetta. No, che so. Come si fa un viva voce lo so perché delle volte lo faccio. E è così, allora a questo punto direi che possiamo... Creatività generica. Possiamo appunto salutare anche Lolly che, Lolly, che, ciao. Che un po' ci manca. E, ciao Riccardo. E che non so perché non c'è Lolly stasera, forse gli stai sul cazzo. No, non l'hai invitato. Come non l'ho invitato? Io ho invitato tutto lo stanzone, a parte Battacchi, ho scritto mi raccomando, non... No, dai, però... ho detto mi raccomando, non... Eh beh, scusa, non si fa. Saluto anche Mauro Maggiora che chissà, mi chiedo chissà se sarà riuscito ad ascoltarci perché ha detto che ci avrebbe provato. E poi dunque invece che cosa abbiamo in programma per questa serata? Oltre ad andare alla Pizzatis prima, però dico non mettere foto strane. già fatta è andata adesso ebbene sì, accendo Facebook anch'io così mi fatemi la foto da qua in su per favore. Bene, questo rimane sempre rimane sempre coxo spaziale e a questo punto è sempre Lolly. Santi numi. Inna. Invece questa ascolta, ma se tu non sai che c'è Ricci, stai ascoltando questo spaziale. Aspetta un attimo che c'è qualcuno che ci sta salutando. Ecco, dicevi scusa cara. Tu sai che David Bowie è morto 2 anni fa, quasi. Allora, quando parli con me, guarda, vai un po' più vicino al microfono. Quando canti invece facci un po' più lontano. Eh no, perché io vedo i volumi che non è dicevi, allora è morto David Bowie, quello l'avevo sentito dire. che poi me l'ha ricordato Michele, è morto sì, 2 anni fa. Sì. E più o meno precisamente, quando 2 giorni fa, dice Michele, che è un fan. Il 10. E quindi dopo vi facciamo una canzone di Bowie proprio per voi, montata per l'occasione. Addirittura, e ce la fate mai adesso fatta o dopo? Né sentita, se vuoi anche subito. No, mai, sì. Mai sentita non direi. Ma no, mai sentita se è difficile che no, io l'avevo, mi piaceva tanto negli non anni siamo 80. Poi così. Okay. Un inedito di David Bowie io lo sentirei subito. Effettivamente esatto, fermi tutti. Sarà uno scoop questo. Poi in realtà sarebbe di Pat Metheny la canzone. Era così inedito che non lo sapeva neppure David Bowie così. Comunque. Infatti in era un certo di Pat senso Metheny. Lo è perché è Pat Metheny la canzone più che di Bowie. Voltiamo pagina. Nelle prossime settimane dovrebbe essere chiusa l'istruttoria interna al comune di Bologna. No, questo non c'entra tanto niente con la spaziale. Dicevamo sì. Ecco, vai, andate con la canzone inedita di David Bowie che vogliamo ascoltare. Salutiamo David, spero che non gli dia fastidio. Beh, male che va, se vedi che dal computer esce una saetta, una scarica elettrica, se vengo fulminata, che ti elettrizza, esatto, può darsi che non gli sarà piaciuta, lo scopriremo presto. Andate, no, se hai bisogno di accordare, no, sei bella, no, vai. No, beh, oddio, vabbè. This is not America. Sha la la la la, a little piece of you, a little piece of me will die. For this is not America. Blossom fades to bloom the season. Promise not to stare too long. For this is not the miracle. There was a time, a storm that blew so pure. For this could be the biggest sky, and I could have the faintest idea. This is not America. Sha la la la la, sha la la la la, sha la la la la. This is not America. No, this is not. Sha la la la, snowmen melting from the inside, falcon sparrows to the. Right. piece of you, the little piece of me will die. For this is not America. There was a time when the blues so young, for this could be the biggest sky, and I could have the faintest idea. For this is not America. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la. This is not America, no, this is not sha-la-la-la. This is not America, no, this is not. This is not America, no, this is not. Sha la la la la. This is not America, this is not. This is not America, no. Bravissima Lidia, oh, allegria, allegria. Però devo dire che l'avevo già sentita, no? Non era proprio, non era proprio un plagio, non era proprio inedita. Dai. Inedita, inedita, magari era solo inedita. Noi siamo contenti che siamo riusciti a farla riconoscere. È un plagio, è un plagio. Devo dire che mi sono piaciuti questa moltissimo i cori. Maria Laura, brava. Anna Laura, perché ti chiamo Anna Laura? L'ho scalzata, hai visto? Sono piaciuti tantissimi i cori, significa che d'ora in poi posso andare avanti anche con le mie gambe. Comunque ho una notizia terrificante. Oddio, cioè, non no, è venuto. Terrificante no, no, non è venuto. No, è... Ah. No, no, in realtà la notizia è che non funziona lo streaming. Per no! Cui... Per cui hanno provato ad ascoltarci Mauro Maggiora e Oscar Moroni e hanno fallito miseramente. Per cui... Cioè non si sente niente. No, non funziona. Ogni tanto si rompe lo streaming e stasera si è rotto lo streaming. Per cui non rompetemi lo streaming. Sì, loro si sono rotti altro, oltre che lo streaming. C'è qualcuno che... Lidia che cantava in stanzone. C'è qualcuno che ha postato in stanzone che per quelli che ci ascoltano in tangenziale è un gruppo segreto di Facebook che anche se lo cercate non lo trovate, però sappiate che potete che lì dentro potete non potrete vedere cioè invidierete quelli potrete che invidiare. Porca miseria. No, detto questo, se Raio se mi cerchi su Facebook, mi chiedi l'amicizia, mi dici sono Raio, io ti caccio dentro in stanzone subito e via così. Si possono fare delle eccezioni. Si possono fare delle eccezioni, come ma in radio sentono? No, in radio sentono. Eh beh, certo, altrimenti stiamo facendo un programma per noi quattro. Molto intimo, sarebbe fantastico. No? No, perché la radio è analogica, per cui non ci sono, non c'è il wifi. Mentre invece, cioè in realtà adesso ormai la radio è digitale anche lei, però. Ti stai accartocciando su te stesso, Pasquini. No, infatti stavo pensando di fare sta cosa qua. No, non questa, questa. Ho sbagliato, volevo fare, sì, volevo. Ho bisogno di una pausa. Questa è Coxo Spaziale. Scusate un attimo. It's real uncomfortable. much like life. I don't mind admitting that it ain't right. You know I love to make music, but my head got wrecked by the business. Everybody wants something from me. They rarely ever wanna just know me. I became the stranger no one sees. Cut glass, I crawl upon my knees. About a bullet and a red light. You know it felt alright. You know it actually felt quite nice. Di nostro spaziale che noi parliamo anche quando c'è la musica, c'è la pubblicità, cioè lo sento senti abbastanza? Ci assolutamente zero. Ah, lì non senti niente? No. Ah, non me lo dici, perché non si sente? Pasquini, sei tu che sei il dominus del... No, sai perché? Perché qualcuno ha deciso di fare questa cosa qua, non ho capito perché. Adesso sento. Adesso senti anche tu. Assolutamente sì. Adesso certo senti, che però vedere io non Pasquini, sento più perché è finito. Vero? Vedere Pasquini che lotta con la tecnologia non ha prezzo, secondo me. Ma è perché è una tecnologia... Cioè, avanzata, cioè nel senso l'avete avanzata. L'avete no, è troppo avanzata per me, io non ce la faccio. Chi c'è? Sei tu? Sì? Sa, com'è? Sa, Saglietto. Ma l'importante è che ci sia. Come potrei avere un futuro nelle radio? Rendere questi servizi. Insomma, e... Sto ascoltando? Coxo spaziale. Oh. Ah, questo. Shhh! Silenzio. Paesaggi spaventosi. Siete d'accordo? Ma moltissimo. Molto bene. Questo è Coxo Spaziale, noi ci stiamo divertendo un mondo, voi molto probabilmente un po' meno, ma abbiamo ancora ben 14 minuti per cui dobbiamo sentire altra musica dal vivo di Lydia Is. Ma pezzi vostri no, oggi? No, domani. Oggi no. Vabbè, oggi no, tanto dai. Oggi cioè, no, domani forse. Però voglio dire, prima va bene che vi hanno bocciato ad X Factor, però non c'è bisogno di deprimersi così, di modo che non... Porterai avanti una mozione per un pezzo un po' più triste. Sa, il progetto potrebbe prevedere qualche attività creativa, qualche attività incisoria. Io comunque non vorrei dirvi a voi due, ma lo vedo un po' troppo entusiasta questo qua, per cui non so. Come, il ragazzo è... Come diceva sì, quello di sempre di Amar Kurz, se Mussolini continua così io non so. E allora la polizia dopo lo prende e le dice: ma che cosa intendeva quando diceva se Mussolini continua così io non so? E poi giù di olio di ricino, dopo poi si caga addosso, una roba così. Molto bene, vedo che non siete ferrati di Amar Kurz, mi meraviglio. Però meno male che cosa ci fai tu? Sì, certo. La Maria Angela, io ero venuto per l'argomento a piacere. Io ricordo la tabacca. Beh, l'argomento a piacere era sentire la Lidia, chiaramente, no? Ecco, appunto. Ma Marco è quello della tabacca, certo. E lì mi sentivo io. Ma come si fa a non toccarsi quando vai dalla tabaccaia che ti dice? Certo che Pasquini è un pozzo di scienza. Sono un energumeno di lo sa tutto, no. dall'inizio alla fine praticamente. È colpa di un mandami una foto di Fedra per farti perdonare, dice. Chiedila a Fedra. Aspetta che glielo scrivo. Ma chi è Maggiora? Questo è Oscar Moroni, detto anche Fuga per Art, Gifo, come... Ma lui riesce a sentirci, no? No, perché non funziona lo streaming. È vero, lui in Veneto, non ha, lui. E lui è Veneto. Costalo Nero dice... Ha un udito molto fine. Chiedila a Fedra. Okay. Volevamo rimanere, ecco, a dimmi. Bologna, cioè noi. Eh beh, sì, certo. E cosa ci fate sentire adesso una... che sono passati, allora, altri 2 minuti? Anche questa nuova, perché così avevamo voglia di fare cose nuove. Un'altra niente. Big Love, molto. Amore. Molto amore. Molto amore. Molto amore. Poi dopo, se la riconoscete, mi sì. dite di chi era, perché questa è degli anni Ottanta. Io non me la filavo negli anni Ottanta, casualmente ne ho sentito una versione particolare, voce e chitarra del cantante che adesso è vecchissimo, e mi è piaciuto un sacco. E abbiamo deciso di farla diversa perché c'era già questo. Perché lui la faceva troppo di fino. No, scherzo, a me non piace, sinceramente. Effettivamente è bravissimo, una tecnica notevole, però è anche sguaiata, proprio come è sporca, invece non è proprio il mio stile, quindi l'abbiamo un po' ridotta, semplificata, e per me rende anche così. Perché less is more. Sì. Less is more. Esatto, Michele, bravo, ha parlato, vorrei dire questo, vorrei okay. sottolineare. Looking out for love in the night so still. Oh, I build you a kingdom and that house on the hill. Looking out for love, big, big love. Say that you love me and that you always will. Oh, you beg me to keep you and that I was on the hill looking out for love. Per dire qualcosa di di poco consono, l'abbiamo pensato tutti. Non l'ascolterò mai. Il finale, dai, era carino. Menzione. E dunque, appunto, visto che siamo, non ho preparato l'angolo della menzione, ma mi sono ricordato che stasera, appunto, inaugura la mostra di Mona Lisa Tina, La tolleranza del corpo. Se non siete da Pizzati con noi più tardi, andate fino ad Adiacenze, che è in Vicolo Santo Spirito 1B, all'inaugurazione, appunto, della mostra di Mona Lisa Tina, che si intitola La tolleranza del corpo, a cura di Alberto D'Ambruoso. Con La tolleranza del corpo, Mona Lisa Tina desidera esprimere tutte le potenzialità comunicative del linguaggio dell'arte come strumento di consapevolezza individuale e di riflessione e crescita collettiva oltre ogni vincolo. Cosa dici, Saglietto? Ma un libro stampato, Pasquini, hai visto? È abbastanza spaventoso. E così, no, così mi ci tenevo a menzionarla, e mi scuso di nuovo che non sono riuscito a fare lo stacchetto in tempo. Questo è Coxo Spaziale, la nostra Lidia si sta pettinando sperando che le stiano facendo delle gran foto, le stiamo facendo delle gran foto, Michele invece non se lo calcola nessuno, ma invece ha fatto due sleghi. Mi posso pettinare? Si può pettinare anche lui, ma ha fatto due sleghi notevoli, devo dire. Non si vede, ma ho una dischetta che ho, ma non si vede in radio. No, devo dire che mi hai un attimo sorpreso, guarda, con una faccia così non pensavo che sapesse. Però Lidia diceva che ci avrebbe detto di chi era l'ultima canzone. Avete indovinato? Ma no, io stavolta optavo per com'è che si chiama quello di sciogli le trecce e cavalli, Umberto Balsamo. Umberto Balsamo. No, scherzo. Le so tutte. Vivo da re? No, porca miseria, questa mi manca. Vivo da re, i decibel, dai, l'ho anche suonata a Coxo Spaziale. Mamma mia. Francesco la sa. Vivo da re. Non te la ricordi? Vivo da re. No, questa canzone. Big Love, Big Love, Big Love. No, lui invece conosce Vivo da Re. Ingolato. Ah, ecco. Ah, chissà dove è finito Romanetti, perché non so se viene stasera. Comunque, noi fra un po' andremo da Pizzati, sta al DLF, giusto per fare delle marchette. Se volete, appunto, se volete conoscere Lidia Is dal vero e magari anche sfiorare. No, scherzo, niente. La chioma di Michele. Potete venire. No, comunque non ci sarà posto perché saremo in 18 e abbiamo prenotato per 15. A nome Sarno, che salutiamo. Doveva venire anche lui, ma secondo me sono tutti qua sotto che cercano di capire da che parte si entra. Quello che leggo anche hanno noi, fame. Ah, ecco. Ah, sono tutti là che mangiano. Vabbè, adesso digli che arriviamo. Adesso, anche perché mancano 5 minuti alla fine, per cui secondo me c'è bisogno di fare un ultimo pezzo. Chiudiamo con i Radiohead. Che è grande. Così vi raddristate, però, esatto. Ben bene. E però... dopodiché ci salutiamo con calma. Dopo dai. Ci salutiamo con allegria. Dai. Vai, con allegria. Rows of houses all bearing down on me. I can feel the blue hands touching me. All of the things into position, all of the things we one day swallow. Rain I am under. Be your child, form a circle before we all go under. Position, all this thing we one day swallow. Yeah. Yeah. Bravo. Che dire? La malinconia, tanta allegria nelle persone, tanta malinconia nei gusti, è vero? Vero? Nei gusti musicali. Vabbè, ma succede anche nelle peggiori famiglie. Dicevo, avete qualcosa da dire? Avete 30 secondi di tempo? Se Saglietto potrebbe chiudere con una sua. No, assolutamente. Io mi astengo dopo questo pezzo bellissimo di Lidia. Non è possibile rovinarlo. Io chiuderei qua proprio. Bravissima Lidia, commovente. Molto bene. Un po' troppa allegria e trapelata dei pezzi. Cerchiamo di moderarci la prossima volta. La prossima volta cercherò anche qualcosa di più. Assolutamente. Dunque, allora, questa era la 203esima, credo, forse 202 seconda, come si dice? 202esima. Forse la 203esima, appunto, no, la 203esima puntata di Coxo Spaziale con Pier Maria Saglietto, Lidia Is, Michele alla chitarra, non mi ricordo il cognome, me lo dici Lenzi? Tu? Lenzi. Io sono Centineo. Sì, certo. Parla Centineo. Poi avevamo anche Francesco, detto anche Costalo Nero. Cognome. Ci vediamo a Coxo Spaziale presto. A Coxo Spaziale con Eroi Noir. E la navetta, possiamo dire che c'era? No? Certo. C'era una splendida navetta. Una splendida navetta. Maria Fantastico. Laura Navetta e l'Elisa. E l'Elisa. Il cognome Sansolino, ma lo so benissimo. Che deficiente. È l'emozione. Lascio la parola al presidente di questa, anzi al direttore di questa radio, che dice con questo basso livello di radiofonia. Ascoltiamo la sigla.